Era presente anche Enrico IV a Roma, quando Matilde era entrata in città con la sua esibizione di gloria. Fu una visione che gli bruciò gli occhi e alimentò la sua psicosi repressa. Ora quella cagna di sua cugina gli stava creando problemi con la sua aperta ribellione, ostentando la sua ricchezza e i suoi indecenti modi eretici. La gente della Toscana avrebbe pagato per aver appoggiato un essere così immondo come un generale femmina. Avrebbe pagato senz'altro e alla fine si sarebbe occupato anche di lei, se ne sarebbe occupato in maniera molto personale. Enrico la sognava ancora di notte. Sognava com'era stato bello sentire fra le sue mani i suoi capelli blasfemi durante quegli anni passati. Ne aveva ancora una ciocca che aveva tagliato mentre lei dormiva. Sarebbe venuto il giorno in cui l'avrebbe dominata e allora non gli sarebbero mancate raffinate torture da infliggerle. La sua prigione a Botsfeld sarebbe stata molto diversa la prossima volta. Non era forse stato sveglio per anni la notte a immaginare certe scene in ogni minimo dettaglio? Era una delle ossessioni nascoste della sua mente contorta e piena di fissazioni malate. I tedeschi furono infine obbligati a cedere il papato al riformatore di Lucca, che fu ufficialmente e indiscutibilmente investito come Alessandro II. Enrico incolpò Matilde per la parte che aveva avuto nella sua grande sconfitta. Il suo odio verso di lei era ormai giunto al culmine. Per l'ordine del Santo Sepolcro, la nomina di un papa lucchese era la realizzazione di un sogno. Era forse la prima volta che un eretico di un'antica famiglia della dinastia diventava papa, ma di sicuro non sarebbe stata l'ultima. Per Matilde, la notizia della conferma di Alessandro fu occasione di grandi festeggiamenti. Ora, con l'aiuto di Papa Alessandro e di suo nipote Anselmo, che alla fine sarebbe diventato il nuovo vescovo di Lucca al suo posto, Matilde avrebbe finalmente potuto mantenere la promessa fatta da bambina. Avrebbe fatto in modo che un degno santuario venisse costruito per custodire il volto santo. L'antica chiesa diroccata di San Martino divenne così una vera e propria cattedrale, ricostruita sulle antiche fondamenta sotto il suo entusiastico patrocinio. Matilde, in quanto contessa di Canossa, partecipò alla cerimonia di consacrazione insieme alla comunità di Lucca, al fianco del loro beato Santo Padre, Papa Alessandro II. Il volto santo ora riposava in una grande chiesa, degna di Nicodemo e del suo capolavoro. Matilde finalmente aveva fatto qualcosa per cui la provvidenza poteva rallegrarsi di lei. Era solo l'inizio. Firenze, 1069. Siediti, Matilde. Beatrice si lamentò esasperata. Le sembrava di aver passato metà della sua vita a pronunciare quella frase a una figlia irrequieta che non si fermava quasi mai. Quella figlia, ormai 23enne, incredibilmente bella e sicura di sé, era un'importante forza politica con cui fare i conti in Toscana e non solo. Esercitare su di lei una qualsiasi sorta di autorità materna diventava sempre più difficile per la matriarca Beatrice. Con Conna al suo fianco, Matilde guidava eserciti dagli Appennini alle Alpi per difendere il suo adorato papa Alessandro dalle forze scismatiche che erano state corrotte per appoggiare l'antipapa di Enrico. Nel 1066 aveva combattuto alla destra del patrigno nella battaglia che aveva decimato i restanti sostenitori dell'antipapa e alla fine era stata acclamata vincitrice, circondata da uomini che pronunciavano il grido di battaglia che l'avrebbe accompagnata per tutta la sua carriera militare per Matilde e Pietro. A detta di tutti, Matilde combatteva con la stessa ferocia e lo stesso valore dei suoi compatrioti maschi. Inoltre, gli uomini la adoravano e la seguivano senza fare domande né lamentarsi. Conn aveva osservato con grande stupore all'inizio che la onoravano proprio perché era una donna. Il merito di questo era suo, in parte perché lui l'ammirava apertamente e lodava il suo valore come condottiero militare. Il gigante celtico che conosceva il potere del mito e della propaganda alimentava i sentimenti degli uomini, paragonando spesso Matilde alle leggendarie donne del passato. I soldati ascoltavano assorti quando Conn intesseva i suoi magici racconti intorno al fuoco da campo, le storie della regina delle Amazzoni, Pentesilea, che si era tagliata un seno perché le impediva di tenere l'arco con precisione mentre combatteva contro i greci per difendere Troia, dell'egizia Cleopatra, che aveva sfidato la potenza di Roma, della sira Zenobia, che aveva governato il regno più grande dell'antichità e per tutto il tempo faceva paragoni con la loro Matilde, enfatizzando la sua superiorità. Parlava loro della profezia dell'attesa sottovoce quando Matilde non poteva sentirla, spiegando che era stata scelta per guidarli. I soldati si vedevano parte di una nuova mitologia, come gli uomini che avrebbero formato una grande schiera di guerrieri intorno a una donna che sarebbe stata ricordata in eterno per aver compiuto il proprio destino straordinario. Sarebbero diventati tutti oggetto di leggenda e venire ricordati dalla storia, Conn rammentava loro, era un tipo speciale di immortalità. Ma gli uomini non erano solo ciechi seguaci di quell'astuta strategia. Le truppe riconoscevano e seguivano la grandezza e la vedevano sia nella forza e nella strategia di Conn, sia nello spirito di Matilde. Seguivano anche la nobiltà, che era una caratteristica innata della loro piccola contessa guerriera, proprio come lo era la sua leggendaria chioma. Era la sua natura che li spronava a compiere imprese di grande coraggio. Ed era grazie a questa combinazione di coraggio e valore, cuore, spirito e potente mitologia, che Matilde di Canossa era diventata una leggenda di proporzioni quasi epiche in Italia. A soli 23 anni veniva chiamata la Pulzella Matilde dalla gente che usciva dai villaggi per vederla passare a cavallo con la sua armatura di rame e acclamarla per Matilde e per Pietro. In quel momento la leggenda personificata camminava su e giù per la camera della madre, tutta agitata. Rispose a Beatrice in tono brusco: Non voglio sedermi, madre. Come vuoi? Puoi ascoltare questa notizia in piedi o seduta, per me fa lo stesso, ma la ascolterai, Matilde. Sei riuscita a sfuggire per 7 anni alle condizioni del tuo fidanzamento. Goffredo te lo ha permesso e anch'io per ragioni diverse. Goffredo non ritiene, e questo gli fa onore, che proverai molto amore per suo figlio e ti salverebbe da questa sorte se solo potesse. L'unico figlio che Goffredo aveva avuto dal precedente matrimonio era l'erede della ricchezza di Lorena e Matilde gli era stata promessa sin da quando la morte di suo padre aveva reso necessaria un'unione legale come quella. Il fatto che il giovane duca fosse noto come Goffredo il Gobbo non lo rendeva il marito più desiderabile per una giovane passionale che era stata cresciuta con una visione nobile dell'amore. Un uomo più famoso per la sua deformità fisica che per qualsiasi altra caratteristica difficilmente poteva essere attraente per una donna che aveva studiato la santità della camera nuziale e aveva sognato l'unione sacra degli amati nella sua forma più appassionata. Matilde fantasticava di trovare la sublime passione che aveva unito Salomone e la regina di Saba o Veronica e Pretorio di cui aveva appreso nell'ordine. Questo non sembrava possibile, date le circostanze che il fato stava tentando di imporle tramite la figura al momento intrattabile della madre. Inoltre, il patrigno non parlava spesso di suo figlio, il che indicava che doveva essere proprio un personaggio ripugnante. Non tornerò mai in Germania, mai, e tu dovresti capirlo meglio di tutti, non puoi chiedermi di lasciare la Toscana. Fa parte della mia anima, il mio sangue scorre in questo luogo e morirò se mi costringi ad andarmene. Mio padre non mi avrebbe mai fatto una cosa simile. Beatrice sospirò, cambiando posizione sulla sedia. Se lo aspettava, lo temeva. È in Lorena che andrai, e la Lorena fa parte del tuo patrimonio. È il mio patrimonio, Matilde, e siccome è l'eredità lasciata niente meno che da Carlo Magno, andrà benone anche per te. È ora che rivendichi quella parte di te stessa e trovi l'onore in essa. E fra le altre cose, il palazzo di Verdun è molto lussuoso ed elegante. La maggior parte della gente penserebbe di essere in paradiso se vivesse in un posto del genere. Allora sarà una prigione lussuosa ed elegante, ma una prigione che non vedrò perché non ci andrò e non sposerò il gobbo. Matilde, c'è qualcosa che ignori. Niente di quanto dirai potrà farmi cambiare idea, madre. Il tuo patrigno sta morendo. Matilde smise di camminare su e giù. Si voltò adagio verso la madre, la quale capì chiaramente che la sua freccia era andata a segno. Matilde amava Goffredo, era stato molto buono con loro. E nei quasi 15 anni della loro vita insieme aveva fatto di loro una vera famiglia. Era stato un buon padre per lei e anche di più, un mentore saggio e paziente che le aveva insegnato come gestire e difendere le proprietà toscane. Gli doveva moltissimo. Ora, all'improvviso, rischiava di perderlo, di subire la perdita quasi incalcolabile di un altro padre. Come lo sai? Matilde deglutì a fatica. In cuor suo sapeva che Goffredo stava peggiorando, ma i 2 o 3 anni che erano seguiti alle guerre scismatiche aveva visto scemare la sua vitalità. Non riusciva più a stare in sella ed era costretto a rimanere in camera per lunghi periodi di riposo. Negli ultimi anni era stata lei a partecipare ai consigli locali, a recarsi a Mantova o a Canossa per incontrare i loro vassalli e fare da mediatrice nelle controversie pubbliche. Matilde era stata tanto affascinata da quell'assunzione di potere che non si era soffermata a riflettere sulle ragioni che stavano dietro. Aveva cercato di spiegarselo con il fatto che Goffredo volesse soltanto lasciarla subentrare nella gestione del suo patrimonio, anziché accettare il fatto che lui non fosse più fisicamente in grado di governare la Toscana da solo. Sei stata via quasi tutto l'anno e non lo hai osservato come ho fatto io. La gotta lo ha sopraffatto. Lui lo sa, io lo so. Attraversare le Alpi sarà difficile. Anzi, lo sforzo potrebbe anche accelerare la sua morte. Ma lui desidera morire in patria, in Lorena. Inoltre desidera vederti tranquillamente sposata con suo figlio prima di lasciarci. È necessario, Matilde. Ti assicurerà l'eredità con i mezzi legali che devono essere accettati da tutti. Non sai che quel perfido di tuo cugino coglierà al volo l'occasione di rubarti i possedimenti il giorno in cui Goffredo morirà, se non consolidi i tuoi titoli tramite il matrimonio. Matilde scosse la testa con disprezzo nel sentire nominare Enrico IV. Nella sua mente egli era ancora la creatura che la tormentava quando era bambina e non era degno di essere considerato un re. Non mi ruberà mai più qualcosa. Guiderò eserciti contro di lui personalmente. Lascia solo che provi a mettere le mani su ciò che è nostro di diritto. No, Matilde, non lascerò che metta le mani su ciò che è nostro di diritto, non finché avrò fiato in corpo. E poi vederti sposata è l'ultimo desiderio del tuo patrigno. Partiremo per Verdun immediatamente, perché Goffredo deve valicare le Alpi prima dell'inverno e per Natale ti vedremo sposata. Mi dispiace, Matilde, se ci fosse un altro modo ti appoggerei, ma non c'è. Matilde sentì che la forza cominciava ad abbandonare il suo cuore e la sua volontà. Alla fine si sedette su una delle sedie intarsiate a mano con sopra dipinto il fleur-de-lis rosso e bianco che era lo stemma della Lorena. Sembrava un simbolico gesto di resa. Devo andare a comunicarlo a Isabella. Così avrà il tempo di prepararsi. Adesso toccò a Beatrice stare in piedi. Sapeva che la figlia, sensibile e caparbia, non avrebbe accolto di buon grado quello che stava per dire. Quello che era sul punto di darle era forse ancora più terribile della notizia precedente. Isabella non può accompagnarti a Verdun, figlia mia. Ormai sei una donna adulta che sta per prendere marito e non avrai più bisogno di una balia. Non sarebbe decoroso. Ecco, era fatta. Sia Beatrice sia Goffredo sapevano che finché la comunità di Lucca fosse rimasta vicina a Matilde, lei non avrebbe mai accettato il suo destino come duchessa di Lorena e moglie di Goffredo il Gobbo. Dovevano staccarla con la forza della sua influenza. E anche se Beatrice detestava ammettere la propria gelosia, l'attaccamento di Isabella nei confronti di Matilde era uno dei veri motivi della sua determinazione. Beatrice non poteva più guardare la figlia. Era stato logorante per il suo spirito materno ferire la sua bambina in quel modo, la bambina che era arrivata ad amare più di qualunque cosa al mondo, eppure era per il suo bene. Matilde era vissuta in uno strano mondo di fantasia in cui aveva creduto per troppo tempo di poter controllare il proprio destino. Adesso doveva affrontare la realtà, e cioè che le donne, nemmeno chi come lei era già divenuta una sorta di leggenda, non potevano decidere della loro vita in questo modo. Era una lezione dura, che Beatrice avrebbe preferito non impartirle, ma necessaria. Si avvicinò alla finestra per guardare la luce del sole che si affievoliva, rimanendo in attesa del profondo silenzio che seguì. L'esplosione che Beatrice si aspettava non arrivò. Alla fine Matilde disse sottovoce dietro di lei: «Verrò con te a Verdun, solo per dare a Goffredo un po' di pace al termine della sua vita. Gli voglio bene, glielo devo. Gesù ha detto di onorare il padre e la madre, e io lo farò». Si alzò di scatto e si diresse a grandi passi verso la porta, smaniosa di essere fuori da quella stanza e immersa in quel poco che restava del sole fiorentino, un sole che sarebbe stata costretta a lasciarsi alle spalle troppo presto. Rivolse le ultime parole alla madre, girandosi appena. «Per adesso vinci tu, ma te lo prometto, solo per adesso». Matilde aspettò di trovarsi in compagnia di Isabella a Santa Trinità prima di arrendersi e mostrare tutta la sua disperazione. «Come potrò sopportarlo, Isa? Come potrò lasciare che quell'uomo orrendo mi tocchi? E come potrò vivere senza di te, il maestro e con e senza la Toscana?» Isabella abbracciò Matilde e le accarezzò i capelli, lasciandola piangere per un po', prima di parlare nel tono fermo ma benevolo che l'aveva sempre tranquillizzata. «Nella vita ci sono cose che devono essere sopportate, Matilde, e quando capitano dobbiamo arrenderci a esse perché sono la volontà divina. Non ha torto, le nostre preghiere dicono sia fatta la tua volontà e non sia fatta la mia volontà. Che cosa ti ho insegnato su questo genere di cose?» Matilde si passò le mani sulla faccia. «Che verrà il giorno in cui vedrò la saggezza del disegno, anche se oggi non posso nemmeno sperare di intuirla». Isabella annuì. «Esatto, perché se accetti il fatto di essere qui con l'obiettivo preciso di portare a compimento il disegno, non conoscerai mai un giorno di dolore. Arrenditi, Matilde. Noi siamo i meri esecutori che portano a termine i piani della provvidenza e dobbiamo farlo posando una pietra alla volta, proprio come ci viene indicato. Quando riusciamo a comportarci così, capiamo finalmente che stiamo costruendo qualcosa di bello e di duraturo. Proprio come ha fatto l'architetto a Lucca per ricostruire San Martino. Chiaramente, si vuole che tu vada in Lorena, perché questo fa parte del disegno e del tuo destino. Chissà che cosa troverai là. Ma non sarà l'unione sacra degli amati con un gobbo, questo è certo. Lo so, Tilde. E mi dispiace tanto che la tua prima esperienza con un uomo non sarà dettata dall'amore vero, ma ti garantisco che un giorno proverai quel tipo di amore e sarà proprio come lo hai sognato e sarà valsa la pena di aspettare. Come lo sai, Isa, che speranze ci sono se a 23 anni sposerò un gobbo? Sarò già vecchia quando finalmente mi sbarazzerò di lui, se mai mi sbarazzerò di lui. Oh, posso garantirtelo. Perché la profezia lo dice in modo specifico. Isabella divenne severa. O credi nelle profezie o non ci credi. Una cosa esclude l'altra, Matilde. O sei l'attesa o non lo sei. E se lo sei, allora, con le parole della profezia, costruirai importanti santuari per la via, per preservare la nostra eredità, e conoscerai un amore grandissimo. Cerca conforto in questo e trova la tua fede, bambina. Ti salverà quando i tempi diventeranno davvero bui. Ma oggi devi accettare questa dura prova, così come Gesù ha accettato le sue e la Maddalena. Di sicuro in confronto non potrà essere così terribile sposare un duca e vivere nel lusso. Messa in quel modo era difficile disperarsi per la propria sorte e non sentirsi terribilmente egoista. Quando era dispiaciuta per se stessa per qualche motivo, il maestro era solito chiederle: «Qualcuno si sta forse avvicinando a te o ai tuoi cari con una grossa croce e chiodi di ferro? Perché se non è questo il caso, hai ben poco di cui lamentarti». Il maestro le aveva spesso fatto ramanzine non solo sui sacrifici di Gesù, ma anche su quelli di sua madre e della sua sposa, che avevano dovuto sopportare il dolore di assistere al suo ultimo sacrificio. Più di una volta avevano discusso fino a tarda notte su quale di quelle sorti fosse la più nobile. La sorte dell'agnello sacrificale o quella di coloro che erano sopravvissute per tramandare il ricordo di quel sacrificio. Era una domanda che non aveva risposta, ma che fra persone di grande spiritualità non mancava mai di stimolare animate discussioni. Isabella ebbe un'idea. Vieni domattina in Oltrarno, subito dopo l'alba. Farò in modo che ci sia anche il maestro e troveremo una soluzione. L'ordine aveva alcune proprietà sull'altra riva dell'Arno, in una zona più appartata e tranquilla che non era sotto gli occhi attenti di tutta Firenze. Una persona riconoscibile e popolare come Matilde non poteva andarsene in giro per una città come quella senza essere notata. Quando erano fra le mura del monastero di Santa Trinità, avevano intimità, ma per altre cose dovevano andare fuori città. Quindi l'ordine aveva costruito un labirinto di pietra e mattoni dall'altra parte del fiume, che il maestro aveva usato per istruire Matilde nel corso di quegli anni. Quello era diventato il loro rifugio più segreto. Devi trovare una soluzione percorrendo il labirinto, Tilde. Solvitur ambulando. Matilde annuì. La frase solvitur ambulando significava si risolve camminando ed era parte integrante degli insegnamenti tratti dal labirinto. Perché a Matilde era stato insegnato che il labirinto era un congegno costruito alla perfezione. Era stato ideato dalla saggezza combinata di Salomone e della regina di Saba, una sublime indicazione di come gli amati possono manifestare grandi miracoli attraverso lo spirito condiviso. Era stato dato all'uomo e alla donna come mezzo per accedere al divino nel modo più diretto, attraverso l'ascolto interiore. Camminare nel labirinto dava alla persona devota orecchie per intendere, cosicché una volta raggiunto il centro, i messaggi di Dio potevano essere ascoltati e compresi in maniera più chiara. Era una preghiera itinerante, una danza di meditazione che portava la mente, il corpo e lo spirito insieme in una consapevolezza particolarmente potente. Era attraverso il labirinto che Salomone aveva guadagnato la sua leggendaria saggezza. Forse Matilde avrebbe trovato la sua forza quella mattina, dopo aver ascoltato la parola divina al centro del labirinto. Non l'aveva mai delusa fino ad allora. Il fiore a 6 petali al centro di quel labirinto era il posto che preferiva in assoluto al mondo, il luogo più sicuro e dolce mai creato. L'indomani vi si sarebbe recata per cercare se stessa, il suo futuro e la volontà divina, altrimenti indistinguibile.